Il punto di Stefano Folli. Oggi dunque il Premier Letta presenta un impegnativo programma per il 2014 con l'intenzione di dare un po' di vigore alla ripresa che si annuncia ma che ancora esangue in un paese ingessato come il nostro. Ci sarà modo poi di stabilire se si tratta di provvedimenti adeguati o se si poteva fare di più, ma già ora si capisce quali sono i limiti in cui opera il governo in un momento in cui tutta la scena è rubata dalla grande corrida intorno alla riforma elettorale con i nodi che ancora devono essere sciolti in Parlamento e i pericoli connessi. Un cittadino si domanderà: ma cosa c'entra? Perché non si possono fare insieme due cose, la legge elettorale e gli interventi sull'economia e sul lavoro? In realtà è possibile, certo, e oggi Letta ci prova, ma la realtà è che un vero rilancio del governo e della sua capacità di iniziativa può avvenire solo se la maggioranza supera l'ostacolo delle riforme in discussione, riforme che in Parlamento possono essere corrette oppure stravolte. La differenza magari può sembrare minima in base agli emendamenti approvati oppure respinti, ma tutto si tiene e la trattativa, diciamolo pure, i ricatti fra i partiti si riflettono come sempre sulla salute del governo.